Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Cosa ho imparato del mondo viaggiando in treno? Ho imparato che le persone si osservano e si intuisce quello che è il loro stato d'animo dal rapporto che hanno con il loro smartphone. Sembra impossibile. Una volta si analizzava il linguaggio del corpo, si analizzava il vestire, si analizzava il linguaggio, si analizzava il modo di porsi. No, oggi basta vedere come guardano il loro smartphone e capisci cosa passa loro per la testa. La ragazza a cui sapone davanti a me, vestita semplicemente, poco più che una bambina, è invece rimasta colpitissima da un messaggio che gli è arrivato, un messaggio di cui non ha avuto l'avviso sonoro, soltanto una vibrazione nelle sue mani, il suo sguardo si appoggia sullo schermo e improvvisamente la vedo rabbuiarsi. Quale notizia ferale le è arrivata? No, c'è la faccia arrabbiata, si vedeva. Sì, sono arrabbiata perché comunque alla fine... uno ci rimane male, no? Ma qual è il fatto? Pensi... Io vedo che ti è arrivato un messaggio, è cambiato faccia da un istante all'altro. Ti sei rabbuiata, come mai? Allora, io ieri ho fatto un incontro di lavoro ieri. Sto collaborando con una società e dovevo portare... i due direttori a conoscere delle persone. È il tuo lavoro quello? È il mio lavoro, sì. Cioè ti pagano? Sì o no? No. Cioè gratis. Mi rendono parte del progetto. Poi quando, siccome... È un progetto per cui non c'è budget? Esatto, sì, è un progetto. Quindi tu quanto hai lavorato per loro? Beh, sono due mesi che lavoro per loro. Senza manco vedere l'ombra di un soldo? Un rimborso spese. Quanto? 100-150 euro. Cioè 70 euro al mese? Sì. Cioè con 70 euro tenevi... Sì, però mi hanno detto... Tenevi mio figlio 6 ore, te li davo io. Ma almeno 2 ore. Mi hanno detto che comunque, insomma, così sarei stata parte del progetto, posso crescere, ho l'opportunità di crescere insieme a loro. E ma l'hanno scritto da qualche parte, tu fai parte del progetto? Non ancora, però mi hanno detto che mi vogliono fare i biglietti da visita. Sì, sai che... Quanto costa? Non sai quanto costa, fai con 5 euro. Vabbè, comunque mi hanno detto che, insomma, adesso stanno anche rifacendo il sito, poi mi inseriranno, insomma. Vabbè, ma stare nel sito che guadagno ti dà? Boh, loro dicono che comunque avrei più... Più chance? Più chance. Di che essere cosa? Se qualcuno mi cerca su Google, vede che io comunque che fai qualcosa. Che vabbè, ti apri un blog da sola e ci metti quello che vuoi, la stessa cosa. Infatti. Comunque, insomma, ieri gli dovevo presentare delle persone. Quante ore stavi con loro in questi 2 mesi? Quante ore del tuo tempo hai dedicato a loro? Quotidianamente, una quotidianamente media. Spalmata su 2 mesi, un'ora al giorno. Un'ora al bagno. Vuol dire che comunque poi ci sono stati giorni in cui non me ne occupavo altri. Cioè, un sinecura è stato, dai. Sì. Beh, però ogni cosa deve avere un prezzo. Comunque sei arrivato a un punto. Comunque, ieri sera, tarda serata, dopo cena, li ho portati a conoscere delle persone che potrebbero essere per loro... Cioè gli ha creato un contatto. Gli ho creato un contatto importante. Sì, un contatto importante che, insomma, avrà seguito. E una volta... C'è qualcuno che, diciamo, che valorizza le loro idee. Sì, esatto, assolutamente. Lo sai, c'è un'agenzia che questo lo fanno prendendo una percentuale. Esatto, assoluta. Persone, insomma, con le quali ci sarà una sinergia, come si dice. Cioè entrano soldi finalmente. Entrano soldi, e ti hanno fatto promesse sulla tua parte di questi soldi? No. Vabbè, no. Entrano a loro però. No, però mi è arrivato un bel messaggio una volta poi tornata a casa di uno dei tre soci. Beh, ti avrà ringraziato, penso, no? No, mi ha scritto, lo prendo, lo leggo, sì. Per la cronaca, a me importava poco di incontrare questi tipi, o almeno non tanto quanto di incontrare te. E a che ora te l'ha mandato? All'1:30. Cioè, l'una e mezzo ti ha squillato l'avviso che ti è arrivato questo messaggio. Sì. E io speravo, tu rispondevi, sono qui calda, non vedevo l'ora che mi chiamavi. Fammi capire. Poi tra l'altro l'ho letto stamattina, perché poi lo spengo il telefono quando vado a dormire. Quindi. Beh, non sempre, poi qualcuno tiene acceso. Un messaggio di notte è un messaggio... È già un messaggio intimo, chi si permette a scrivere un messaggio di... Stavo con il mio ragazzo, si svegliava con il suono del messaggio, chi è? Cioè, pensa bello. Questa cosa, sì. Cioè, finiva la tua storia d'amore? Beh, sì, ci facevo anche una figura brutta. Va a spiegare che tu non hai fatto nulla per incrementare questa attenzione. O comunque mi direbbe, ah, questo è il lavoro che fai, così ti trattano. Avrebbe ragione, però. Avrebbe ragione, sì. Beh, adesso che fai con questo messaggio nel telefonino? Non so, che magari dico... Non so, sto pensando a che rispondere. Ti sei già consultata con le amiche, di la verità? Sì. Che ti hanno detto? Ho mandato lo screen. Vediamo le proposte delle amiche. Riassurdo, vediamo un po'. Poi ti dico come la penso io. Allora, una dice: scrivigli che ti sta simpatico, ma sei innamorata di un altro. Già ambiguo, lui ti direbbe: ma cosa pensi? E poi dice: io mica voglio una storia d'amore, da te voglio soltanto darti una sbattutina e poi basta. Così risponderebbe se sì. È conseguente a quello che ti ha scritto. Poi? Un'altra, sempre su WhatsApp, mi ha scritto adesso, mi ha detto: scrivi, anche a me ha fatto piacere passare la serata insieme, ma vorrei che non ci fossero incomprensioni se ci ritroveremo a lavorare. So che potrà nascere un bel rapporto di lavoro e amicizia tra di noi nel rispetto dei sentimenti che provo per il mio ragazzo. E poi aggiunge una cosa simpatica farà di voi e via. A me questo sembra un po' troppo... No, è totalmente scema questa tua amica. Ridimmelo, io ti faccio l'analisi. Allora, prima cosa, perché nasce un'amicizia con uno stronzo che ti manda un messaggio di notte e ti fa capire che ti ha fatto perdere tempo? Tu pensavi che era per lavoro, quindi per tuo sostentamento in realtà era per provarci. Perché devi essere amica di questo? Perché devi dirgli, tu c'hai intenzione di essere amica? Ma lui poi è una persona carina, non ah è... una persona carina, no, sta, ti sta bene, allora che vuoi rispondi. No, a me non sta bene, sì, caro, anch'io non mi sembra una persona, ma uno che fa così, tieni conto l'atto di violenza, mi sembra un laido lui. Sì, è un laido, perché tu dipendi da lui economicamente, tu speri che lui ti dia comunque del denaro per il tuo lavoro e lui ti dice che ti ha fatto perdere una giornata di tempo semplicemente che voleva vederti. Non è un laido, non lo trovi che sia laido? Perché non capisci la laidità di questo atto? Beh, comunque c'erano anche gli altri soci, loro effettivamente perché lui se ne stava in disparte, ma gli altri comunque parlavano poi con queste persone che ho presentato. Quindi già lo giustifichi. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ah, perché devi sbandierare l'amore per il tuo fidanzato se è così fragile da essere messo in crisi da un messaggio di un cretino che ti dice ti volevo vedere e non me ne frega niente del lavoro. No, io non sono lusingata, però non... Secondo me non sono imbarazzata. Imbarazzata. Che dovrei rispondere? Allora, uno che ti crea imbarazzo non è uno che ti fa una violenza. Sì. Cioè, adesso tu sei in treno, se un uomo ti si mettesse vicino e ti cominciasse a fare la corte, non ti sentiresti in imbarazzo? Mi alzerei, cambierei. Ecco, perfetto. Ecco, lui gioca sul fatto che tu non puoi mandarlo a quel paese perché speri che questa illusione di lavoro alla fine si concretizzi. E hai tu usato il tuo tempo, i tuoi contatti, le tue relazioni per creare a loro un'opportunità di lavoro di cui usufruiranno in maggior percentuale loro. Lui ti manda un messaggio di notte, già ambiguo, non si manda un messaggio di notte una ragazza. Tu sei sposata, accoppiata, fidanzata, pregare la notte, fare quello che vuoi. Mandare un messaggio di notte, a meno che non ci sia un'urgenza e a meno che non ci sia un'intimità vera, non si fa. È già un segno di entrare nella tua intimità. Seconda cosa, perché deve dirti questa cosa? Che vuole vedere te? Perché già è una maniera per provarci. Se tu gli rispondi come dice la tua amica, com'è, vorrei fare un rapporto, sì. Già gli dai un'apertura. Se metti davanti il tuo fidanzamento è ancora peggio, perché è una giustificazione. Chi ostenta una storia d'amore per evitare la purezza di un'altra già vuol dire che c'è un terreno debole sotto i piedi. Quindi cosa risponderai? Posso dire che cosa? No, nella tua mente, vediamo, nella mia mente ti direi: guarda, io non io ieri sera ero al lavoro e lui dice: allora vediamoci al di fuori. Mi spiace se hai travisato, ma io ieri sera ero al lavoro. Quindi ti giustifichi, hai travisato, vuol dire tu hai avuto con lui atteggiamenti che ma in qualche lui maniera. Non ci ho proprio parlato. Vabbè, evidentemente lui ha. No, allora io ieri. Travisato cosa se non c'è mai. No, allora no. Io ieri sera ero al lavoro e non ho interesse nei tuoi riguardi al di là. Lui ti risponde: ma quale interesse? Ti tratta subito da travisionario, perché lo stalker, questo è un inizio, è l'embrione di un atto di stalking. Lo stalker poi cascherà sempre dalle nuvole e si aggrapperà sempre a ogni appiglio che tu gli darai. Tu gli stai dando degli appigli. Senti che sei ansioso. Ti angoscia questa cosa. Sì. Ti angoscia. Io ti do il mio consiglio, io risponderei semplicemente: non farmi perdere più tempo se non è per lavoro. Okay. Perché questa me frase. Ma glielo scriveresti questo? No, non lo farei. No, mai. Mi sembra troppo. Troppo cosa? Troppo aggressivo, troppo, ecco, da stronza. Troppo da stronza. Lui non è stato stronzo con te. Vedi, lasci sempre un margine, come le donne che giustificano gli uomini che le picchiano. Dicono: no, in fondo mi ama. Perché guarda, questo è il primo scalino verso la giustificazione dell'uomo che ti picchia. Comunque lui, il messaggio finiva con buonanotte. Madonna mia, quanto sei idiota. Scusami, ma proprio me lo tiri fuori. Buonanotte, allora dice buonanotte, poverino, allora è un buono. Dice buonanotte, è un buono. Eh? È un buono? No, però non lo so. E che doveva dirti, scusa, certo, dice buonanotte. Alle 1:30 di notte doveva dirti buongiorno. Mi scriverò ieri. Quindi in qualche maniera ti ha colpito, dai. No, non mi ha colpito. Ti ha lievemente sedotto. È che non voglio credere che sia uno stalker o no. Una persona pericolosa. Ma non è pericolosa, non è che ti picchierà, a posto volta verrà col macete. È una persona che ti fa un atto di violenza, ma la violenza si fa in tante maniere. Siccome su di te lui ha un potere, tu speri che da lui ti vengano dei soldi o un lavoro, come giusto, capito? Sta usando questa chiave, non è bello questo, non è carino. Tu potrebbe farti la corte al di fuori del lavoro, potrebbe dirti: se ti va beviamo qualcosa assieme, ma in un momento giusto, non mandando un messaggio a notte, estremamente ambiguo. Tu dici: un uomo, conosco questi sistemi. Questi sistemi sono sistemi tipici per cominciare a aprire la prima fessura nella grande muraglia di una persona riservata, come immagino tu sia, perché tu non dai segnali esterni di disponibilità. Sei una ragazza a cui sapone, non è che vai lì e fai l'aggressiva facendo vedere un aspetto altro. Ammesso che poi uno possa anche fare l'aggressiva e non doversi poi beccare messaggi di notte. Ti ha creato angoscia, però vai, ti vedo tanto angosciato, vero? Un po' sì. Cosa aspetti? Perché guarda, è passato tempo prezioso. O non rispondi per niente, fai finta di niente, anche la cosa peggiore. È la cosa peggiore? Sì, se non rispondi niente è ancora peggio. Perché allora, ti do due alternative, okay. Ti do una soft e una hard. Quella hard è quella che io seguirei. Non farmi perdere altro tempo se non è per lavoro. Ti dai una bella mazzata sulle palle. Lui poi cadrà dalle nuvole, dirà: sono stato gentile, ma non ti rivolgerà più la parola. Ma siccome tu vuoi lasciarti una strada aperta, e l'ho capito, non rispondi. Guarda, con lui la strada aperta. Ma non perché mi interessi lui al di fuori del lavoro, ma non voglio nemmeno litigare con... Ma non c'è da litigare, scusa. Lui ha violato la tua privatezza. Sì, ma se io lo faccio sentire adesso uno stalker, gli rispondo trattandolo come uno stalker. No, uno stalker. Poi lui si sentirà imbarazzato a anche proseguire questo ma non rapporto. Ma devi pensare che quello non è un gesto di cavalleria, non è un atto seduttivo, non è un atto simpatico, non è un omaggio come ti regalasse un fiore la mattina. Ci sono mille modi per mostrare ammirazione a una persona senza farla sentire in colpa. Potrebbe invitarti un giorno durante una pausa di lavoro a bere qualcosa con lui. Dire che non gli interessava un incontro che io avevo organizzato che era per lui e che era venuto soltanto per vedere me, non è carino. Vuol dire, da un punto di vista professionale, tu conti niente per lui, uno zero. Non ti considera e non ti stima come professionista. Gli piace, quindi ti vuole. E questo è il significato. È molto umiliante, tu ci hai perso tempo. Sì. Lì era il tuo lavoro, non è che è stata fatta fuori. Te l'avesse mandato un sabato sera, così già era meno pesante la cosa, anche se era fastidiosa, capito? Soprattutto che tu l'hai mai incrementata questa cosa. Assolutamente no, io parlo sempre anche del mio ragazzo, non è che sono quello lì. Parlare del ragazzo, del marito, delle mogli, delle fidanzate non conta nulla. No, ma poi non ho proprio incentivato. Molte persone mettono subito le mani avanti per avere delle scappatoie. No, non ho proprio incentivato la cosa. Ma quello non dice nulla. Ecco, quindi nemmeno gradisci essere corteggiata, puoi startene tranquilla. Assolutamente. Perfetto. Allora, mi sembra questo è chiaro il tuo atteggiamento. Se lui insiste, già il passo. Io non risponderei. Fa passare due giorni senza rispondere, vedrai che ti riscriverà. Ti dirà: lo sai, ti faccio una profezia. Ti sei arrabbiata? ma io scherzavo, ma io dicevo soltanto così, cosa c'è di male? Comincia. E in questo momento due sono le cose che puoi fare: o lasci perdere, però non devi più aprire, perché se tu rispondi altri messaggi, hai aperto un piano di colloquio su quello che è una tua sfera intima e personale. Il messaggio è esplicito: gli piaci te, e tu cosa devi dire? A me non mi piace, beh, allora insisterebbe. Non ci sarebbe, ogni volta che tu ti trovassi sola con lui avresti l'imbarazzo, capito? Se lo dice chiaramente, lui non ci torna più. Decidi te, non lo so, mi addolora molto questa cosa. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Ma altre tue amiche cosa ti hanno detto? Poverina gentile, voleva farti un complimento, vero? Sì. Ma tu lo pensi veramente? Sì, effettivamente non è una forma di complimento dire... Cioè, i complimenti non danno... Tu sei angosciata da ore, sì. Capito? Perché da quando hai ricevuto questo messaggio? Sì, perché penso allora... Un complimento ti fa contento? Sto lavorando o no per queste persone? Oh, vedi che c'è un problema dietro. Cioè, un complimento, io ti dico come sei carina, sei contenta, che bella giornata. Mi ha detto un uomo sconosciuto che sono carina, quindi probabilmente piaccio. Sì. E non ti mette nessun problema. Questo ti crea il problema, perché dici, se va avanti questa cosa, io sarò sempre più ricattata. E come la metto? Se io cedo verso questa persona, magari mi tengo l'occasione di lavoro, però mi trovo di fronte a una situazione spiacevole. Se lo mando a quel paese, perdo un'occasione di lavoro. Guarda, tutte le avance sugli ambienti di lavoro giocano tutto su questa speranza che poi in realtà ci poteva essere dietro una grande occasione di lavoro. Giocano su questo, trovo infame. È come ricattare una donna, è come minacciarla con un'arma. Dice, guarda, se non me la dai, con me non c'è speranza di lavorare. Alla fine è quello, la sintesi è questa. E quindi? Ci penserò. Se no, dico io, guardate, io vi do il mio tempo e i miei contatti e la mia forza lavoro, ma di là di questo non e loro ti direbbero, e loro ti dicono, ma chi ti ha chiesto niente? Chi ti credi d'essere? Chi sei? Ma ti sei guardata? Così rispondono. La crudeltà può arrivare a limiti sublimi. Non è semplice rispondere ad un messaggio del genere. Ma io lo trovo semplicissimo. Non mi far più perdere tempo. Non farmi perdere tempo se non è per lavoro. Non mi sembra la cosa più semplice. Cioè, teoricamente lui non mi ha fatto perdere tempo, perché ieri la serata comunque è stata... No, ti ha fatto perdere tempo. No, perché gli altri colleghi invece hanno... Sì, mentre lui era zitto in un angolo, i suoi colleghi hanno comunque portato a termine. Ma lui che fa allora? Come non è interessato? Lui non voleva venire ieri sera, voleva mandare soltanto gli altri colleghi. Ma il capo di capi lui? È uno dei capi sono vari. Vabbè, tutti i capi qua, ma alla fine i soldi chi li porta? Tutti fanno i capi, ma chi lavora fa questo? Cioè, che ti sei scelto? Cos'è, una startup avveniristica di quelle lì? Oggi tutti con questa storia delle startup si vende più fumo che altro, tutti fanno startup. Sì, ma alla fine vedo chi mette i soldi. Le idee possono essere geniali, ma i soldi chi li mette? Questo è il problema. Vabbè, io secondo me non ne esci. Tu farai finta, tu risponderai a un messaggio carino. Tipo, scusa, sai, vorrei fra noi ci fosse soltanto amicizia e nulla di più. E lui ti dirà, sì, certo, cara, siamo amici. Ci vuoi essere amica sua? No. Se lui ti invita adesso? Dici, no, speriamo di no. Beh, ti invito, no, scusa, voglio chiarire, per farmi perdonare ti invito a cena, dai. Sono con un ragazzo, non posso. È sempre questo ragazzo, ma scusa, ma sbrigatela da sola. Non basta, non posso. Non puoi mettere sempre avanti il ragazzo, scusa. Dico che non posso. E lo racconti al tuo ragazzo? Non lo so. Ecco, vedi, già c'hai una cosa. Io glielo direi. Perché è umiliante. Perché mi potrebbe pensare che io sono poco valida dal punto di vista lavorativo. No, se c'è un bel rapporto glielo devi dire. Lui si incazzerà. No, poi glielo dirò. Comunque. No, cioè, diglielo prima. Allora, non far perdere. Se glielo devi dire, glielo dici subito. Sì. Se non glielo devi dire, non glielo direi più. Però glielo direi. Perché a posteriori sembra tu nascondevi qualcosa. Sì. Tu no, dici, siccome lo vedo domani, magari gli tu gli dici, guarda, ho conosciuto un signore in treno venendo da te, sì. Mi ha fatto tutta questa filippica, sono un signore anziano, quindi sì. Io mi ha detto di dirtelo, te lo dico, guarda, ho ricevuto questo messaggio, io ci sono rimasta male, io dici, sono rimasta male, secondo te che farei? Che devo fare? Capito? Sì, glielo dico. No, diglielo, figlio, diglielo adesso. Glielo dico adesso. Però adesso gli scrivo. Scriviglielo adesso, fammi vedere. Adesso. Gli mando lo screen anche a lui. Manda lo screen, dice. Mi è arrivato questo stanotte. Vabbè, dai. Vabbè. Ti ho salvato la vita, penso. Okay. Forse non ti ho salvato. Grazie. Il tuo fidanzamento, però perlomeno ho evitato che tu fossi vittima di un violento stupratore. Ciao, buon viaggio. Ciao. I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. Shh. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Dirò qualcosa di molto forte, qualcosa che lo dico naturalmente con spirito apotropaico, cioè lo dico per riservarmi la possibilità che questo mai a me accada. Se dovessi scegliere una morte, la vorrei in un treno. Ma non un treno, un disastro, muoiono tutti. No, magari, che ne so, mi appiso sulle rotaie di un binario morto, ma in realtà questo binario è stato riattivato. Non senti nulla, senti un fischio, nemmeno te ne accorgi. Perché dico questo? Dico questo perché capitò un giorno che il giornale per cui lavoro mi chiese di scrivere il mio necrologio. Doveva essere semplicemente una prova sul campo di una diffusa moda che parte dagli Stati Uniti, per cui i personaggi noti e famosi, non è il mio caso naturalmente, ma io devo semplicemente emulare un comportamento di persone rappresentative, hanno l'abitudine di scriversi da solo il loro necrologio, non volendo essere rappresentati dall'orrido coccodrillo che magari scrive un collega invidioso o una persona che nulla sa di loro. E quindi scrivono questi loro epitaffi funebri, li aggiornano continuamente, li tengono sempre disponibili e nel momento fatale vorrebbero che quello fosse il loro ricordo che rimane al mondo. L'ho scritto un po' per gioco, un po' per facezza, l'ho scritto qualche tempo fa, mi divertì vedere il mio necrologio pubblicato dal mio giornale, ma ora mi sorge un terribile dubbio. E se questo fosse nel cassetto dei coccodrilli? E se il mio giornale lo tenesse in riserva e lo aggiornasse per un momento fatale in cui dovrà uscire comunque un mio necrologio? Lui, che trapassò l'etere da remote sponde radiofoniche, lascia oggi questa terra portando con sé i suoi progetti ambiziosi, la sua penna ironica, la sua voce tagliente un po' retrò. Gianluca è finalmente trapassato a miglior vita. Dopo una lancinante agonia iniziata con il suo primo capello bianco, sofferenza lenita solo dalla speranza di una veloce mineralizzazione della sua spoglia mortale per poter finalmente assumere le fattezze di un imperituro, vulnerabile golem della comunicazione. Chiuse gli occhi sul mondo mordace dopo una vita in cui non ebbe pace. Fu molto odiato ed invidiato da molteplici morti viventi, ma nell'ingiustizia spesso subita lo sorresse la speranza che a tutti lui sarebbe comunque sopravvissuto. Amò gli alberi, avrebbe preferito morire ad aprile per un vezzo poetico. Gli sarebbe piaciuto essere vittima del più crudele dei mesi, e invece lo rapì agli affetti un marzo predatore, che è solo pazzerello e quando c'è il sole prende l'ombrello. Nella vita fu spiazzante, per passione eroica sollevò nelle piazze centinaia di femmine morenti, le sollevò per farle tornare vive e dimostrare quanto potessero liberamente comportarsi da donne leggere. La morte per lui non fu leggera, ma quando lo spiazzò gli diede sollievo dalla vita. Esplorò con voluttà ogni più bieco anfratto dell'animo umano e spesso ci si perse. Morì assai meglio di come seppe vivere, pur tuttavia morì come visse, disarmando. Suscettibile in vita, non approvò nessun necrologio di parenti ed amici. Quando vide approssimarsi il momento estremo, lanciò un appello in Facebook. Compose il suo ricordo funebre assemblando i post che amici sconosciuti avevano pubblicato sul suo profilo, dove aveva anzitempo annunciato la sua morte. Come lui avrebbe desiderato, ora giace in un condono tombale, in cui gli fu concesso di rientrare dal debito che aveva maturato con il tempo, da sempre suo peggiore strozzino, a cui per tutta la vita non riuscì a pagare nemmeno gli interessi. Alla fine ebbe freddo e cercò la luna, ma era solo pomeriggio, eppure nuvoloso, quindi si spense, guardando un monitor acceso. A furia di elogiare realtà fantasmatiche, c'è cascato pure lui. Oh, visitatore, in ginocchio su questa tomba, non elevar preci. Ben altri inginocchiamenti ricorda della sua vita, fatta anche di allegre serate e di tanti margarita. Spesso ai pochi amici diceva: non riuscirei a essere serio nemmeno al mio funerale.

Io ogni mattina esco di casa per andare a esigere i debiti e ogni mattina incontro me stesso. Io per mia fortuna non ho subito mai visite da parte di esattori, però sono comunque continuamente martellato, tartassato da istituti di recupero credito che mi contattano per sanare le mie posizioni debitorie. Si crea di conseguenza un paradosso, perché io da debitore mi metto nei loro panni, cosa che non dovrei fare, cosa che non dovrei assolutamente fare. Però io da debitore ogni giorno mi devo vestire in giacca e cravatta, con il mio dramma interno mi devo rivestire, vestire di allegria, fra virgolette, e andare a lavorare e andare a recuperare i debiti da persone che sono esattamente nella mia stessa condizione. Questo è stato probabilmente il vero limite del nostro amico recuperatore di crediti, quello di non essere abbastanza spietato in un lavoro che richiede, impone spietatezza. Il suo essere di manica larga, il suo essere di animo gentile ha fatto sì che su di lui si scagliasse una terribile e implacabile nemesi. Lui stesso una volta, come ci ha raccontato, ha dovuto rispondere alla porta a un suo collega che si presentava, lui spiantato e debitore impossibilitato a pagare, per riscuotere il credito. E come avrà fatto ad ottenerlo non vogliamo nemmeno saperlo. Il treno va. Ed ecco finalmente l'atteso spazio della lettera relativa alle funzioni relazional-sentimentali. Questa volta un'ascoltatrice molto irritata e probabilmente da un certo punto di vista invidia sottilmente il mio essere multitasking semovente di muovermi su un binario che porta sì verso stazioni fisiche, ma c'è sempre questa sorta di allucinata donna misteriosa che mi aspetta in qualche stazione e non so nemmeno se incontrerò alla fine, che probabilmente eccita molto le fantasie ma anche i disprezzi delle persone che mi ascoltano. Caro Nicoletti, ho notato che tu tratti con una certa superficialità quello che è il rapporto tra umanità e social network. Hai più volte fatto capire che alla fine per te è solo una grande fiera delle vanità, dove persone in cerca di fama cercano facile consenso e visibilità, mostrando di sé lati irreali e fittizi. Parli bene tu che te ne vai in giro in treno come una diva a prendere in giro poveri viaggiatori, soprattutto viaggiatrici, anonimi, che nemmeno si rendono conto di regalarti la loro vita in quelle brevi chiacchierate che sgraffigni abile come un borseggiatore da stazione ferroviaria. Beh, quelli che non hanno come te la possibilità di incontrare tanta gente disposta a mettersi in relazione con loro, cosa dovrebbero fare? Ecco quindi che ci pensa Facebook, il più democratico ed economico facilitatore di amicizie, il benefattore dell'umanità normale, quella che non riceve mail dai propri fan. Hai spesso ascoltato viaggiatrici che raccontano di loro amori o banali storie di sesso che hanno avuto la loro origine da scambi a distanza via computer. Ci trovi qualcosa di sbagliato? Dobbiamo sentirci in colpa se ci piace piacere? Se finalmente basta un selfie al vedo e non vedo fatto davanti allo specchio e passato per Instagram per avere una montagna di like che per noi sono balsamo vitale? Sì, spesso sono la medicina per sopportare la noia di rapporti sfiniti, sfilacciati, putrefatti, ma che devono comunque restare in piedi e non chiedermi perché. Io ho quasi 30 anni e per molto tempo ho avuto più amici su Facebook che nella vita concreta. Posso dirti che mi sono divertita a flirtare, ad accettare i corteggiamenti notturni fatti di cuoricini e faccine che strizzavano l'occhio. Anche io ho avuto almeno 3-4 storie con persone conosciute via social. Mi giudichi una ragazza leggera? Credimi. Mi sono concessa con lo stesso criterio che avrei usato con persone conosciute a una festa, durante una vacanza, a scuola o al lavoro. Non cambia nulla, solo che posso scegliere di più e tra più persone. La rivendicazione sindacale della chattatrice compulsiva mi sfiora lievemente. È chiaro che è lecito per ognuno di costruirsi universi fittizi, di costruirsi figure simboliche, costruirsi mitologie individuali e che in qualche maniera appagano i suoi vuoti relazionali, vuoti che abbiamo tutti, ma come facevamo ai tempi in cui non esistevano i social network? Ma ci arrangiavamo più o meno, ci facevamo coraggio, ci facevamo forza, assalivamo le fortezze implacabili delle persone che consideravamo al di fuori della nostra portata. Oggi probabilmente è sufficiente cambiare la foto del proprio profilo, trovare un fotografo bravo che ci faccia una foto decente, o impratichirsi nell'uso di Instagram e di altri succedani che rendono meraviglioso, simbolico e carismatico anche un ritrattino fatto con uno smartphone con una cattiva luce. Ora però mi trovo in una situazione che mi sta creando qualche problema. Forse proprio per il tuo essere cinico e spietato puoi essermi d'aiuto, consigliandomi come uscirne. Da quasi 2 anni ho trovato quello che si definisce l'amore della vita, una bella storia con un ragazzo che adoro e con cui vorrei passare tutta la vita. Unico punto oscuro: è geloso del mio passato, soprattutto quello virtuale. Pensa che per fugare ogni sospetto sono stata io che, come atto d'amore, gli ho offerto tutte le password per accedere ai miei profili, alla mia mail, a tutti i luoghi virtuali. E lui ha subito accettato. Adesso però lui si è fissato con una persona che abitualmente mi scrive su Facebook. È un amico che chiaramente è interessato a me. Io mi guardo bene dal dargli spago, ma lui, non sapendo che il mio ragazzo può leggerlo, fa un po' il provolone velato, come si usa fare in questi casi. Dice e non dice, ma lascia intendere. E anche di un altro che mi mette i like si può pensare la stessa cosa. La situazione è diventata insopportabile. Il mio compagno passa le nottate ad analizzare ogni mio post passato per cercare tracce di mie possibili dissolutezze. Non volevo alimentare le sue paranoie, ma fugarle. E invece ora mi trovo nei casini. Secondo te, come ne esco? Ahimè, hai fatto lo sbaglio che mai nessuno dovrebbe fare: l'ammissione di avere una vita parallela. Sia essa questa vita parallela densa di situazioni inenarrabili, irraccontabili, imbarazzante, sia essa completamente neutrale, come lo è la vita palese, la vita rappresentata. Mai dare la password di un proprio social a un'altra persona, se anche la persona in cui diamo massima fiducia. So che oggi è molto in voga il pegno d'amore. Una volta, come pegno d'amore, sarà qualcosa di molto importante. Una volta le fanciulle di buona famiglia e di inappuntabile educazione, quando scrivevano a donna Letizia, dicevano: mi ha chiesto la prova d'amore. Era un bacio o era anche una intima d'azione sgraffignata prima del matrimonio. Oggi la prova d'amore è la password: dammi la password di Facebook, fammi vedere un po' chi ti scrive, che è uno sbaglio enorme. Esiste un codice che è irraccontabile e indecifrabile. Una persona che ci scrive, quello che noi scriviamo su Facebook, siamo noi parzialmente, non corrisponde mai a un atto, quello che probabilmente è dialogare con codici e in territori che nulla hanno a che fare o poco hanno a che fare con la realtà. Il tuo fidanzato passerà le notti contemplando e rafforzando il concetto di essere un potenziale cornuto. Ogni like, ogni passaggio, ogni cuoricino, ogni semplice citazione o riferimento sarà per lui una coltellata. Ormai vuole soltanto la prova che tu sia una donna perduta, che tu abbia avuto un torbido passato di frequentatrice di social network. Ormai non ne torni più indietro. Potresti cambiare la password, ma sarebbe un'ammissione di colpevolezza. Potresti rinunciare a una parte precipua della tua vita relazionale, dire a tutti i tuoi contatti: guardate, da oggi vi legge il mio fidanzato, quindi non mandate più nemmeno gli auguri per il compleanno o il buongiorno la mattina, che potrebbe essere mal interpretato. Ma chiuderesti e uccideresti una parte importante della nostra esistenza, che è quella correlata e traslata da macchine. Perché rinunciarci? Molto più facile per te rinunciare al fidanzato. Trovatene un altro, probabilmente questo è il momento giusto.